Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ci sono delle cose che si fanno senza pensarci troppo a volte. Io, quando decido di partire per un viaggio, cerco di prendere subito i biglietti quasi di nascosto da me. Perché poi magari ci ripenso e più la meta è improbabile e meno ci voglio pensare. Nel maggio del 2006 organizzai un viaggio in Pakistan e qualche tempo dopo mi accorsi di un piccolo dettaglio. Io, che adoro giocare e vedere giocare a pallone, mi ero dimenticato dei mondiali. Mi chiamo Nicola Ferrero, ho appena compiuto 40 anni, vivo a Bra in provincia di Cuneo e collaboro come freelance con Slow Food, l'associazione no gastronomica. Era il 9 luglio del 2006. Tutto il mondo aveva gli occhi puntati su Berlino, tutto il mondo più o meno era a Berlino, io ero a Parigi. Era un fine settimana estivo, non avevo fatto i calcoli, effettivamente. Non avevo pensato che quel fine settimana lì c'era la finale dei mondiali. La finale era Italia-Francia e io, invece che andare a Berlino, mi trovavo a Parigi, nella capitale di quel paese lì. Mi ricordo che il pomeriggio i francesi erano in giro con le macchine a fare caroselli, come se avessero già vinto il mondiale, e cantavano una specie di canzone che suonava tipo Zidane il va marché, che credo voglia dire, per quel poco che comprendo di francese, Zidane segnerà, Zidane farà gol. Ed effettivamente Zidane fece gol. E io quel primo gol lo vidi in una brasserie in mezzo ai francesi, di fianco a un tizio australiano per di più, che mi insultava per il rigore che ci avevano dato al 95esimo con cui avevamo vinto contro l'Australia. Quando al gol di Materazzi ho rischiato di essere picchiato, mi sono trasferito in un altro posto del quartiere latino di Parigi, davanti a una trattoria italiana che era piena, ma fuori c'erano decine di italiani, e lì, diciamo, abbiamo esultato. Siamo poi insieme ad alcuni andati ai Le Champs-Élysées, ai Campi Elisi, giusto? Per vedere cosa succedeva, e la meraviglia era che non succedeva niente. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui, ma anche 800-24-0024, il posto più incredibile dove avete visto una partita di calcio. Si parla di partita remota, si parla di televisore, non che siete andati in Turchia e avete visto dei ragazzini giocare a pallone. No, si parla della vostra squadra, possibilmente, di una partita molto importante, e di voi dall'altra parte del pianeta. Vi faccio un esempio. Antonio l'ha già scritto su Facebook. In una stazione di servizio vicino a un villaggio arabo in Israele, nel mezzo della Galilea, a nord del paese, Barcellona-Milan di quest'anno, seduto su uno strapuntino a bere birra e inalare fumo passivo, due urla le mie, al gol di Pato del primo minuto e alla fine col pareggio di Thiago Silva in zona Cesarini. Esperienza stupenda. 800240024. Antonello, al San Raffaele di Milano, europei del 2008, i miei compagni di sventura chiedevano a gran voce l'ingresso di Roby Baggio. Ed era il 2008. Rudy, tenda 5x5, Capo Teulada, Sardegna, in mezzo al poligono militare. Televisione collegata con il gruppo elettrogeno per vedere nel 1996 la finale di Coppa Campioni Juve-Ajax a Roma. Che finì quanto, Tiziano? Vinse la Juve, credo. 1-0 per la Juve? No. Chi è che ha vinto questa partita? Ma la Juve... Ha vinto la Juve sicuramente, mi dice lo Juventino Bonini, era il 1996, quindi poi la Juve ne ha vinta un'altra, però contro il Borus... No, questa è l'ultima che ha vinto la Juve, davvero? Nel 1996. 800240024, se avete voglia di chiamare e dircelo direttamente al telefono. Questo però è decisamente uno dei miei preferiti. Matteo, perché... C'è gente che fa del calcio una malattia, e se il racconto di oggi parla dei mondiali del 2006 visti in Pakistan, Matteo è veramente al livello della patologia. La mia sveglia era puntata alle 5:30 della mattina per seguire una partita di scarso interesse calcistico. Me l'ero ripromesso, anche in Australia avrei seguito il Vicenza via streaming, e così fu anche quella partita, più o meno 2 anni fa, stagione 2009-2010, Serie B, per chi non sapesse nulla di calcio. Era la mia squadra del cuore, era l'ennesima

perché fondamentalmente mi piacciono molti posti desertici e montagnosi. Mi sono innamorato del Ladakh, che è nel nord dell'India, nel 97. Ci sono tornato diverse volte, mi è piaciuta molto la Siberia. Ma scusami, non sono un tipo da mare. Ma nel 2006 il Pakistan era già un posto pericoloso? No. Ok. Assolutamente, infatti quel viaggio lì credo che oggi non sia più fattibile. In verità la Valle di Hunza è una valle molto, molto turistica, perché è la valle che ti porta in Cina, tu proseguendo. Sì, ma infatti devo dire che dai tuoi racconti si è capito che è un posto meraviglioso. Nicola, e poi ti devo salutare, contro chi gioca il Torino questa domenica? Andiamo a Modena e vedremo, ma stiamo giocando talmente bene che... Non avete paura di nessuno. Nicola, grazie ancora davvero di grazie tutto. Te, buona giornata. A presto. Voi siete qui. Oggi c'è la foto di Nicola, non c'è l'illustrazione sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Nicola, e lo dico rivolgendomi proprio a te Nicola, che sarai ancora all'ascolto. Sei fantastico, perché se io avessi visto la tua fotografia avrei detto, potrebbe essere del Piemonte, potrebbe essere che lavora in quelle cose tipo slow food, potrebbe essere che è del Toro. Sarà che non so perché, ma assomigli drammaticamente a Michele Serra. Era il 9 luglio del 2006, c'è gente che scrive che ancora si commuove ripensando con la finale. Io ero a Parigi, come vi dicevo, e ogni tanto mandavano canzoncine come questa. C'è un messaggio di non so chi che scrive: indimenticabile quella finale. A metà partita però scoppia una lite furibonda tra me e mia moglie. Mi sono perso tutto. L'unica consolazione è aver assistito alla vittoria dei mondiali 82 all'età di 10 anni. 349-238-6666, ma anche 800-24-0024, il posto più assurdo in cui avete visto una partita di calcio. Intanto mi dicono che la Juventus ha vinto la sua ultima Champions League nel 96 ai rigori 6-5 con l'Ajax, quindi è giusto quello in cui è segnato la mia. In seguito ha perso tre finali con Borussia, Real Madrid e Milan. Marco da Genova. Prima partita con l'Italia dei mondiali 2010, al pronto soccorso, con pizza e birra, con gli sguardi infastiditi e sofferenti dei poveri pazienti. E poi ancora, finale mondiale 82, villaggio in Sri Lanka, quattro italiani in mezzo a circa 200 tedeschi. La finale era Italia-Germania 3-1, e ce la ricordiamo pure quella. Italia-Nuova Zelanda, ma questa è dell'anno scorso, tra l'altro finita malissimo, in un'isola a largo di Gotland, che è un'isola nel Mar Baltico svedese, dove le televisioni erano proibite addirittura. E poi ce n'è uno che mi ha fatto, di cui non, cioè, non mi ricordavo questo dettaglio. Nel 1985, finale che è Juventus-Liverpool, stadio Eisel, quindi la tragedia dell'Eisel, io, juventina sfegatata, sono in Germania alla pari e mio padre al telefono mi tiene informata perché la TV tedesca a un certo punto ha chiuso la diretta per lutto. 349-238-6666, questa era bellissima. 25 maggio 2005, Milan-Liverpool, finale Coppa dei Campioni, ero in viaggio di nozze al Cairo, ero al bar dell'hotel insieme a due ragazzi brasiliani e tre giornalisti delle BBC. La partita, per chi non se lo ricordasse, ma quei pochi che non se lo ricordano, finisce primo tempo 3-0 per il Milan, viene recuperato a tre pari e poi il Milan perde ai calci di rigore. Il giorno dopo, mi scrive Luca da Vignola, in provincia di Modena, il giorno dopo mi sveglio con la febbre a 39, avevo la gastroenterite, così invece di andare a passare la giornata al Museo Egizio, ero steso sulle della camera d'albergo con mia moglie che mi assisteva. 800240024, andiamo a Prato, andiamo da Stefano. Pronto Stefano? Sì, ciao, ciao Matteo. Come stai? Ciao. Bene, bene, tu bene? Dove, io menone, dove ti trovavi a vedere cosa? Io mi trovavo in campeggio con i miei genitori nell'82. Quanti anni avevi? Avevo 9 anni, sono del 73. Uh-huh. La notte della finale del mondiale tra Germania e Italia, sì. E ricordo, vabbè, ricordo quella notte come, come nessun'altra, nel senso non ricordo notti di 10 o 15 anni dopo, ma quella notte lì la ricordo. Fatto sta, mezz'ora circa prima dell'inizio della partita, al campeggio va via la corrente completamente, tutto il campeggio. Ah, e quindi? E quindi se gli attimi di panico assoluto, i minuti che... seguivano fino ad arrivare a un quarto d'ora circa dopo, per cui a un quarto d'ora dall'inizio della partita, quando si capì che la corrente non sarebbe più tornata. E come, scusami, come l'avete vista sta partita? Per cui è successo che la ricerca affannosa, poi era l'82, insomma, i mezzi, i media, saltò fuori una televisione microscopica da 12 volte, credo, in bianco e nero, che fu messa sul cofano di una macchina, tutto il campeggio guardò la finale. Ma scusami, quindi a pile andava sta televisione? Andava con i cavi attaccati alla batteria di un mezzo, di una macchina forse, erano tutte roulotte. Immagino. Stefano, grazie mille, buona giornata. A te, ciao, grazie. Ciao. Claudio da Milano, pronto Claudio? Sì, ciao. Ciao, sei nel traffico immagino, considerato com'è la situazione oggi a Milano. Sì. Perfetto. Sì, esatto. Dove sei? Dimmi dove sei e dimmi quanto coda c'è. Io sono all'Imbiate, in mezzo a un casino pazzesco, devo arrivare dopo Vimercate. Benissimo, in bocca al lupo. Dove hai visto che la Champions, mi pare? Sì, è una partita di Champions con il Milan che giocava, però non mi ricordo assolutamente contro chi. Tu figurati. Ed ero a Teheran per lavoro. E praticamente eravamo io e un mio collega, ci siamo fermati davanti a un negozio che aveva i televisori in vetrina. E dopo 5 minuti che eravamo lì davanti, il negoziante, un po' impietosito, ci ha fatto entrare, ci ha preso delle sedie, ci ha fatto accomodare. Pensa che era all'inizio del primo tempo e ci ha fatto vedere tutta la partita, primo tempo, secondo tempo, poi a un certo punto doveva chiudere il negozio, l'ha chiuso e si è seduto con noi e ha guardato la partita con noi. Che lavoro fai Claudio? Io sono commerciale, quindi giro un po' per il mondo per lavoro. Va bene, in bocca al lupo, soprattutto per il ritorno a casa. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Finale Champions 2008, Chelsea-Manchester United, quindi questo proprio non gliene frega niente di nessuna delle due squadre. Lascio mia moglie, novella sposa in piscina e sto in camera a bere Corona. Non potevo perdere una finale, anche in viaggio di nozze in Messico. Roberto della provincia di Arezzo. Pronto, Roberto? Pronto. Ciao. Ciao. Senti, ciao. Qua si parla di Italia-Olanda del 78. Sì, grande, grande. A Cortona, provincia di Arezzo, in una bettola, chiamato il Bar di Vero, il primo televisore a colori a Cortona. Scusami, ma che partita era? Cos'era? Mondiali, europei? Mondiale del 78 in Argentina. Finita quanta la partita? 2-0 purtroppo per l'Olanda. Noi avevamo preparato tutto, tutte le striscioni fuori, scritte sull'asfalto. Che partita era? Scusami, ottavi qua? Italia-Olanda. No, ho capito, Olanda. Ma ti ricordi se era una semifinale? Se era... Sì, mi sembra era una semifinale era... Ma scusami, ma era l'Olanda di Cruyff? Era quell'Olanda lì? L'Olanda, bravo, di Cruyff. Vabbè, un'Olanda in gioco. Ci fece quel gol da centrocampo con quel tiro. Vabbè, ma una squadra ingiocabile era quella. Lo so. Era il calcio totale. Poi c'era un'altra bella nell'82. Tornando a casa, non arrivavo troppo tardi a casa per vedere le partite dal lavoro. Mi fermavo su un barrettino. E lì ci vidi Italia-Argentina e Italia-Brasile. Ma il bello fu Italia-Argentina su 2-0, avevo una pattuglia della stradale, i componenti della pattuglia accanto a me esultarono e mi trovai il mitra all'altezza dello zigomo. Magnifico. Roberto, grazie mille, buona Prego, serata. Ciao, grazie. Claudio mi scrive invece, 2010, Barcellona-Inter a Sarria in Spagna, durante il mio cammino di Santiago. All'andata avevo visto l'Inter vincere 3-1, e ce lo ricordiamo, ma all'andata non avevo potuto vedere il match perché a León, l'albergo delle suore, chiudeva battenti alle 10. A Sarria, dopo aver visionato l'alberg municipal, opto per un ostello che è munito di televisione. Vedo la partita con il portiere e il cuoco dell'ostello, ovviamente spagnoli e blaugrana. Alla fine passa faticosamente l'Inter in 10 con un gol finale di Piqué molto dubbiosamente annullato. Finita la partita scoppiano fuochi d'artificio. Erano i tifosi del Real Madrid che festeggiavano la sconfitta del Barcellona. L'ultima telefonata di oggi, andiamo da Gino, provincia di Viterbo. Pronto Gino? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Io ho visto la partita in Australia. Sì. Mentre mia figlia nasceva praticamente. Io stavo tra... Aspetta, Gino, di quale partita parliamo? Parliamo di la finale Italia-Francia del 2006. Ok, della stessa partita di Nicola. Praticamente mia figlia Sofia nasceva. Sì. E io praticamente stavo tra la sala parte, la televisione della stanza di mia moglie alle 3 di notte, perché c'era il fuso orario rispetto alla Francia. Non dico che sono tutto l'ospedale, però comunque stavo con questo cuscino in mano, la tensione della partita, la tensione di mia figlia che nasceva, devo immaginare come la tensione che c'aveva addosso. Ma scusami Gino, ma cosa ci facevi in Australia? Io sono fisioterapista. Sì. E ho seguito per tanti anni la nazionale di nuoto e ho conosciuto tra i vari campionati mia moglie che è australiana. Ok. E ci siamo sposati e tra cui ho seguito per tanti anni anche la nazionale giovanile di calcio e tra cui nella finale Zaccardo, Girardino, questi ragazzi hanno fatto tutta la trafila del nazionale giovanile, quindi io ero emozionato perché avendolo visti i ragazzini Immagino, ma quanti anni hai, Gino, perdonami? Io sono 42. Ma 40. Quanto hai vissuto in Australia? No, io sono andato soltanto a far nascere mia figlia, poi sono tornato. Ma per la cittadinanza? Per la città, sì, bravo. Perché c'è lo ius soli, per cui se nasci lì sei cittadino, sì, come negli Stati Uniti. Sì. Senti, Gino, ti ringrazio moltissimo e saluti alla... Quanti anni ha tua figlia adesso? Beh, era il 2006. C'ha 5 anni. C'ha 5 anni. Ciao, Gino, grazie mille. No, grazie. Ciao, in bocca al lupo. Sul pullman in vacanza studio a Londra, 1994, Italia-Spagna. Eravamo due gruppi, italiani e spagnoli. Bellissimo finale, 2-1, eravamo già arrivati a destinazione. Per fortuna avevo 14 anni. Gabriele, grazie a lui, grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. Soprattutto grazie a Nicola per il suo racconto. La storia di oggi, quella di Nicola, parlava di viaggi e di pallone. Quella di lunedì è la storia di Aria e parla di sviste. Il sole alto di mezzogiorno ci coglie quando non è lontana la cupola di Casalmaggiore. Il papà decide di accostare il gommone a un pontile solitario. Lo lega saldamente e fa scendere tutta la truppa. Ci mettiamo seduti sotto l'ombra di qualche albero in un bel prato.